Siamo con Chiara Lalli al Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, dove si è parlato di GPA, diritti LGBT e Stepchild Adoption. Partiamo con la questione dei diritti LGBT, perché le questioni LGBT dovrebbero riguardare tutti i cittadini e non solo i cittadini LGBT. Sono diritti civili fondamentali, è banalissimo, è talmente banale che non si capisce perché dovremmo, insomma, spiegarlo. Sono diritti fondamentali di ogni persona, indipendentemente dalle proprie credenze politiche, culturali, religiose, dai propri orientamenti sessuali, dal proprio sesso, di poter fare quello che gli eterosessuali in Italia fanno normalmente, cioè possono scegliere di sposarsi, di non sposarsi, di divorziare, di adottare, di fare figli, di non farli. Quindi l'orientamento sessuale e il sesso delle persone non dovrebbe incidere minimamente sulla possibilità di usufruire di alcune possibilità o addirittura di diritti. Cosa genera la paura e il rifiuto della conoscenza delle differenze? Prendiamo ad esempio il caso dei libri censurati, le polemiche che ne sono scaturite nelle scuole, soprattutto quando questi libri della casa editrice Lo Stampatello, ad esempio, che illustrano diversi tipi di famiglia, volevano essere portati nelle scuole. Immagino che sia, intanto sembra paradossale, ma la paura di conoscere sta nel non conoscere, nel senso che poi più vai a vedere di che stai parlando, più ti rendi conto che le realtà appunto non si distinguono per orientamenti sessuali o sesso, ma si distinguono per come siamo fatti noi individualmente, cioè siamo no persone per bene, non in base a che colore di capelli abbiamo e di chi ci innamoriamo o da quali altre persone siamo attratti, non è questo il punto. Senz'altro, rispetto alla storia, insomma, del comune di Venezia, la prima, credo addirittura fu la prima azione del sindaco, del neo sindaco Brugnaro, quindi chissà che urgenza c'era di richiamare questi libri scandalosi, c'è anche proprio, secondo me, una totale ignoranza in senso tecnico proprio di quello di cui si parla, cioè probabilmente non hanno mai neanche aperto questi libri, che peraltro non sono libri gender, come è stato detto, non ha nessun senso poi questa definizione, ma sono libri che in vari modi cercano di raccontare la realtà per com'è, ovvero le famiglie sono fatte in più modi, le persone sono fatte in modi diversi, per bambini più o meno piccoli, quindi scegliendo dei registri e dei toni, dei modi di raccontare adatti a varie età. Non c'è nulla di scandaloso in quei libri, anzi fa anche ridere andarli a vedere dopo che uno si è letto tutte queste polemiche o la censura, le urla e gli scandali, perché davvero poi uno va ad aprire e ci sono Piccolo Uovo, per esempio, o altri libri che parlano di famiglie dove ci sono più membri o più riferimenti, diciamo, familiari, e veramente è molto difficile trovare qualcosa che fa paura. Temo che sia semplicemente, banalmente, un effetto di una specie di telefono senza fili, per cui uno sente dire gender e si spaventa, ma non riesce neanche a riempire quella parola. E poi probabilmente anche un po' quello che diceva Milita Cavallo, che probabilmente alcuni sono meri interessi politici, quindi si fa qualcosa anche di insensato sperando di tenersi i voti magari di chi è più pigro, non ha voglia di andare a capire di che si sta parlando, e quindi sente gender, si impaurisce e simpatizza perché dice no, via, il gender lo vietiamo nelle scuole, che poi tutto questo non significhi nulla e sembra essere irrilevante. A questo proposito volevo chiederti proprio quanto influenza il linguaggio, il modo in cui si racconta l'argomento, che può essere la gestazione per altri, chiamandola utero in affitto o parlando di ideologia gender, quanto l'utilizzo delle parole influenza la percezione distorta rispetto a temi ancora in Italia sconosciuti. Molto, perché intanto se lo ascoltiamo spesso c'è proprio un tono di disprezzo, quindi c'è anche un'espressione, una tonalità che va a calcare quell'intento, e poi perché ogni termine veicola ovviamente dei concetti, una semantica che si è anche sedimentata e che quindi andrebbe smossa e anche in qualche modo bonificata, perché quando parliamo di gender c'è sempre o spesso una reazione un po' spaventata, no? Quando gender non significa altro che genere, che c'è di così spaventoso, perché dovrebbe far paura? È chiaro, se vicino ci metti ideologia o fantasma, terrore, abbiamo letto delle cose tipo la cataratta dell'umanità, oppure devo aver cancellato le cose più belle, ma insomma si trovano, perché è stato detto veramente di tutto, quindi su questa terrificante invadenza o invasione si scambia cambiano, per esempio il proposito di fare educazione di genere nelle scuole per giochi pornografici, insomma veramente è a metà tra delirio e non so, forse cialtroneria, perché davvero certe reazioni è difficile spiegarle. È chiaro che usare e scegliere dei termini, pensavo mentre mi facevi la domanda, la scelta per esempio strategica di vivisezione quando si parla di sperimentazione animale, no? È chiaro che usare vivisezione già ti dice da che parte sto e qual è il mio intento. Il mio intento è suggerirti o farti venire quella stessa ripugnanza che io ho, usando una parola che peraltro è scorretta e imprecisa, ma che ci evoca subito orrore e disgusto. E quindi l'idea è strategicamente di farti avere quel disgusto e quella ripugnanza per l'argomento di cui sto parlando senza aver bisogno di dimostrartelo. Quindi è strategicamente, diciamo, comodo, spesso vincente, perché poi siamo anche pigri come sugli slogan pro-life, no? E il pro-life è una scelta strategicamente geniale, perché per smontare il pro-life, che tutti siamo per la vita più o meno ovviamente, no? Per far capire che in realtà si intende qualcosa di molto diverso, in genere la posizione pro-life è quella che nega le scelte alle singole persone, appunto io già ci ho messo alcuni secondi e già l'uditorio probabilmente si è rotto scatole, quindi pro-life ci impiega 3 secondi, la necessaria smentita impiega più tempo. Parlando di linguaggio, anche il linguaggio e la lingua è frutto di una cultura che fa sempre più ricorso a un'opposizione di tipo natura-cultura. Riguardo a questa opposizione, come è cambiata anche l'idea di genitorialità, in particolare della donna rispetto alla maternità? Allora, la natura dovremmo proprio smettere di usarla, di nominarla, non nominiamola più, perché rispetto soprattutto alla famiglia non esiste nessuna famiglia naturale, rispetto a come noi parliamo di diritto, non quello storicamente ovviamente, ma non esiste nessun diritto naturale, sono tutti prodotti, i nostri prodotti, che dovrebbero rispondere a delle necessità e dovrebbero possibilmente semplificarci la vita e non complicarcela e non discriminarci. La natura però ultimamente è tornata molto spesso a essere invocata sulla madre, sulla maternità, un po' anche come effetto, non so se inevitabile o no, ma un effetto di un benessere che ci ha fatto dimenticare cos'è davvero la natura, perché se stiamo parlando di natura in senso di quello che accade senza l'intervento dell'uomo, io inviterei tutti quelli che invocano la natura a passare un paio di mesi in una grotta e poi forse hanno cambiato idea sulla natura, perché dopo che hai a che fare con un contesto ostile e con una vita devi insomma vedertela con difficoltà tremende cui non siamo più abituati, probabilmente la nostra idea di natura cambierebbe. Spesso è semplicemente un'allucinazione, un'idea arcadica che non è mai peraltro esistita, perché appunto la natura è molto più natura matrigna che benigna e comunque senz'altro la natura non interessa nulla di noi, è differente rispetto ai nostri destini, e quindi veramente dovremmo smettere, anche perché la prima scema cosa da dire per smontare l'idea che ciò che è naturale è buono è che le malattie sono naturali e tutti i modi con cui noi cerchiamo di tornare a essere sani sono innaturali, contro natura, quindi dovremmo decidere o siamo per la natura ma lo siamo in tutti i contesti e quindi dobbiamo rinunciare a farmaci, medicine, interventi, tecniche, cellulari, computer, la lista insomma è infinita. Come mai in Canada la surrogacy altruista e solidaristica funziona, non c'è questo problema, mentre in Italia, che invece ha sempre appoggiato questo versante, cioè di fare le cose senso economico, nel momento in cui abbiamo una legge che permette di donare ovociti senza avere un ritorno economico, mancano le donatrici? Mi sembra una domanda molto complicata che richiederebbe anche un po' più di dati, nel senso sapere bene per esempio perché le donne accettano in Canada e in che condizioni. Senz'altro capisco che possa essere, anzi è oggettivamente oneroso donare un'ovocita o più ovociti rispetto per esempio alla donazione dei gameti maschili. Ovviamente donare gameti femminili è estremamente più oneroso perché hai bisogno di sottoporti a dei trattamenti e poi c'è un prelievo chirurgico vero e proprio, quindi richiede insomma una disponibilità, un tempo, ma anche una disponibilità a sottoporti comunque a dei trattamenti rispetto a condizioni forse ancora non ben chiare, nel senso che da quando poi il divieto di cosiddetta eterologa è stato giudicato incostituzionale lo scenario forse ha ancora bisogno di qualche aggiustamento, perché sono stati anche tanti gli anni in cui questi divieti della legge 40 hanno bloccato, pensa anche alla diagnosi genetica di preimpianto o insomma alle tecnologie che andavano avanti e che poi sono state bloccate da una legge che ha imposto dei divieti. Quindi è senz'altro una domanda molto complessa che prevederebbe insomma conoscenza di vari livelli, ripeto, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista culturale e anche proprio dei contesti sanitari, perché probabilmente dovremmo anche fare i confronti e i paragoni rispetto a una situazione proprio strutturale in cui qui in Italia vai con l'idea di donare o di prestarti gratuitamente per un servizio altruistico e una struttura da qualche altra parte. No, non lo faccio, ci provo e poi invece non vado avanti perché è troppo complicato, perché non mi spiegano bene le cose, perché rischio la mia salute e non riesco a vedere che tipo di vantaggio potrei averne in cambio. Che poi è un discorso che potrebbe essere allargato sul perché c'è questa ossessione anche che la gratuità va bene e invece il compenso è immorale e ripugnante. Passiamo all'obiezione di coscienza. Cosa ne pensi? Andrebbe tolta dalla 194? La 194 stessa andrebbe cancellata, totalmente e riscritta in modo diverso? E se pensi di sì, come secondo te? Allora, in un mondo ideale, a questo punto, visto che la legge 194 esiste dal 1978, quindi in quel momento era giusto concedere la possibilità di fare obiezione, cioè di non eseguire aborti, perché le persone che avevano scelto di fare, operatori sanitari che avevano a che fare con l'interruzione di gravidanza, l'avevano presa quella decisione sapendo che era illegale e che quindi non si sarebbero dovuti confrontare con quella realtà. Sono passati ormai tanti anni, ormai quasi 40, e quindi direi che in un mondo ideale potremmo dire: ora, se decidi liberamente di fare una certa professione, di esercitarla nel pubblico, non vedo perché dovresti avere dei privilegi. Quindi quell'articolo 9 che prevede di fatto un privilegio, perché stiamo parlando di questo, perché l'obiezione di coscienza peraltro è una cosa un po' diversa da quella prevista dall'articolo 9 della legge 194. In un mondo ideale io direi, spero che non venga nessuno in mente di mettere mano alla 194, perché viste le ultime insomma vicende normative, penso alla legge 40, ma penso anche ai disegni di legge sulle direttive anticipate, che per fortuna poi si sono arenate, perché quando si discuteva del DDL Calabro per esempio c'era uno scenario terrificante rispetto alle direttive anticipate. Quindi immaginare oggi di andare a toccare la 194 non mi fa stare molto tranquilla, preferirei provare a suggerire o augurarmi che la legge 194 fosse applicata un po' meglio, perché quello stesso articolo 9 che poco fa ho detto in un mondo ideale andrebbe tolto come privilegio, è vero che ha stabilito un privilegio che, ribadisco, allora era giusto e corretto, ma è vero anche che in una gerarchia tra la possibilità dell'operatore sanitario di fare obiezione di coscienza e la richiesta da parte della donna di un servizio sanitario, la forza sta su quest'ultima, cioè il diritto e la richiesta di interruzione di gravidanza dovrebbe venire prima della coscienza del medico o dell'operatore sanitario. Quindi già applicare correttamente la legge 194 eliminerebbe la maggior parte delle schifezze che leggiamo spesso in cronaca rispetto all'applicazione zoppicante o proprio alla disapplicazione, perché ci sono dei numeri che superano il 90%, ci sono delle strutture in cui un solo medico su 20, 25, 30 non è obiettore, ed è buffo anche doverlo definire in negativo, quindi fa al 100% il suo lavoro. In alcuni ospedali non esiste nessun medico che garantisce il servizio, e comunque anche solo uno è decisamente una situazione estremamente poco sicura dal punto di vista della garanzia, ma anche devastante dal punto di vista del medico, che spesso si riduce a fare solo quello, e quindi creando una situazione anche di insoddisfazione e di solitudine e di isolamento nell'operatore sanitario, che non è molto corretta e non è neanche la migliore garanzia di un lavoro svolto nel migliore dei modi possibili, insomma. Invece, per quanto riguarda la gestazione per altri, nel panorama femminista si sono alzate alcune voci che si sono dichiarate contro per il pericolo dello sfruttamento e della mercificazione del corpo della donna. Si può parlare a nome di una sola donna? Non è un replicare e ricalcare in qualche modo quel sistema, quell'unico pensiero monolitico che si è tentato di decostruire? Intanto, se abbiamo così la presunzione di parlare a nome di qualcuno cui non rivolgiamo neanche mezza domanda, qualcosa di sospetto c'è. E poi senz'altro non è che solo gli uomini sono sessisti o ammiccano al patriarcato, anche una donna può avere simpatia per un sistema che in qualche modo paradossalmente è lesivo dei suoi stessi diritti, no? Anche se questa donna è una femminista? Luisa Moraro, io non la considero una femminista, non la considero neanche una in grado di articolare correttamente un discorso e di costruire argomentazioni, perché poi il punto è questo: Luisa Moraro può pensare tutto quello che vuole, naturalmente, ma se ha la pretesa di costruire un argomento solido non si può ridurre con Io sono contraria a pestare i piedi, perché lo facevamo in terza elementare, forse adesso dovremmo aver acquisito degli strumenti un po' più razionali. Ripeto, poi si può sostenere qualunque cosa, ma è il modo con cui lo sosteniamo. Dire che intrinsecamente una donna non può decidere di portare avanti la gravidanza per qualcun altro a me sembra profondamente non femminista, perché si sta decidendo al posto di un'altra donna che, ripeto, spesso non è neanche coinvolta. Quindi io sarei curiosa, chiederei a Muraro e alle tante altre firmatarie, ma se volessi io portare avanti la gravidanza per qualcun altro, Muraro che cosa avrebbe da dire? Mi verrebbe a dire che sto mercificando il mio corpo e si facesse gli affari suoi. GPA retribuita o solidaristica? Non si rischia magari in alcuni contesti di fare una discriminazione di classe sia per le madri gestazionali sia per quelle coppie che, diciamo, accedono a questa pratica? Ma i rischi ci sono in qualunque pratica, gli abusi e gli errori ci sono in qualunque azione. Non dobbiamo confondere la pratica intrinsecamente e l'abuso, quindi non dobbiamo fare l'errore di dire tutte le possibili maternità surrogate sono frutto di abuso, coercizione, violazioni di diritti fondamentali. È ovvio che il contesto e la volontarietà e la libertà dei soggetti coinvolti siano gli elementi che danno la risposta alla domanda, cioè dipende dalle condizioni, dipende se la volontà della singola donna è stata rispettata, dipende se è stata invece obbligata. È chiaro che se viene obbligata o chiusa in una stanza o costretta a fare qualcosa che non farebbe, quello è un abuso che tutti noi condanniamo e dovremmo condannare. La via però più corretta per abbassare, cercare di eliminare il più possibile gli abusi e i problemi enormi che ci sono in tanti paesi del mondo, non credo che stia, almeno io non vedo come strada giusta il divieto universale o la condanna universale. Direi che la strada più giusta è cercare di regolamentare, quindi anche eliminando anche l'idea che chi è non a favore della surrogata ma a favore della possibilità che le persone scelgano non sia contrario agli abusi. Cioè, mi sembra veramente ovvio e scontato che siamo tutti, almeno dovremmo essere tutti, contro gli abusi e lo sfruttamento, ma ridurre ogni possibile scelta a uno sfruttamento è un errore. È come dire che siccome la gente litiga allora condanniamo l'amicizia intrinsecamente, o la gente divorzia e condanniamo intrinsecamente i matrimoni. Succede, ma non possiamo fare l'errore di dire siccome quel matrimonio o anche l'80% dei matrimoni sono finiti in un divorzio o a tirarsi i piatti, allora quello è l'esito intrinseco necessario. In chiusura, spesso quando si parla di tutti questi argomenti che abbiamo toccato oggi, le persone tirano in discussione la questione morale, la moralità. Cos'è per te la moralità ed è utile alla società? La morale sarebbe molto utile se si attenesse a delle regole di argomentazione, cioè non dire è così perché è sbagliato perché lo penso io, questo non è un buon argomento morale, ma cercare di costruire delle argomentazioni a sostegno di una posizione morale, quindi di un tentativo di rispondere alla domanda se qualcosa è giusto o sbagliato. Non è facile perché abbiamo a che fare con un sacco di questioni. La prima è acquisire informazioni, perché ovviamente è insensato chiedersi se sia giusto o no sperimentare sugli embrioni umani quando non sappiamo cos'è un embrione, cos'è una blastocisti, non sappiamo che cosa significa sperimentare, non abbiamo idea di come si fa la ricerca. Ecco, dare una risposta in assenza di quella minima premessa di informazioni è un po' dissennato, quindi quello non sarebbe un vero dibattito morale, in realtà è rispondere quasi automaticamente a delle domande che non hanno molto senso però per noi, perché non abbiamo gli strumenti per valutarli. Quindi la strada migliore secondo me per avvicinarsi a una discussione morale è quello di, appunto, distinguere il piano fattuale da quello morale e cercare di costruire quello morale ispirandosi alle metodologie più razionali e analitiche, evitando le ripugnanze, evitando il disgusto, perché quelli non sono argomenti morali, sono reazioni istintive che non hanno nulla di intrinsecamente sbagliato, ma che se vengono scambiate per argomenti morali si rischia di fare un sacco di confusione, perché se io vengo a dirti no è così perché lo penso io, tu mi dici no è così perché lo penso io, non iniziamo neanche a parlare. Ed è la stessa trappola di chi si presenta a un tavolo di discussione, per esempio, dicendo che i suoi valori non sono negoziabili. Non ci sediamo neanche, nel senso che tu tieni i tuoi valori non negoziabili. Se però purtroppo non è mai così, se non hai la pretesa di imporli a me va tutto bene. Il guaio è che chi si crede detentore della verità morale o di altro tipo poi vuole venire a imporla a tutti gli altri, e allora lì è un po' più difficile, anche perché sempre più ci saranno persone che hanno idee diverse da noi, cioè via via che allarghiamo il nostro contesto di riferimento, magari prima sono il nostro piccolo gruppo di amici, una famiglia allargata, un paese, una regione, un continente, il mondo intero, ecco, nel mondo ci sono persone estremamente diverse, per idee, per culture, e quindi per cercare di non prenderci a martellate o di non provare neanche a avviare un discorso, lo strumento più sensato è appunto l'argomentazione di tipo morale, se discutiamo se qualcosa è giusto o sbagliato.